Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Stefania Martelli, dal 1908 il mondo della rasatura perfetta pro raso, di Anna Marino. Terreno che si sono ripresi, perché il barbiere, che appunto è il luogo di chiacchiera maschile solo esclusivamente per uomini, si è andato perdendo un po' nell'arco degli anni, e un sacco di uomini anche adesso vanno dal parrucchiere. Ecco, invece questa riscoperta del barbiere è esattamente l'opposto, cioè l'uomo che si riappropria di spazi prettamente maschili, spazi dove le donne non vogliono entrare, perché fra tutte le cose che le donne possono prendere dal mondo maschile, dall'abbigliamento a praticamente anche il calcio, appunto, ormai è molto femminile da un certo punto di vista, ecco, la barba, proprio quella non la vogliono, fra le tante grane che una donna esteticamente può avere, la barba se la risparmia estremamente volentieri. Conosce molto bene il mondo della rasatura maschile, unico spazio rimasto tale dopo lo sconfinare di uomini e donne l'uno nei campi dell'altra e viceversa. Stefania Martelli è la quarta generazione della Ludovico Martelli SRL, creata dall'omonimo fondatore a Firenze nel 1908. Oggi l'azienda di famiglia è guidata da Ludovico, nipote del fondatore, e dalle figlie Laura e Stefania. Oltre a Proraso, la Ludovico Martelli commercializza altri brand di prodotti per capelli, cosmetici e igienici, tra cui Marvis, Schulz, Caloderma, Procrin, Batist, Oxy. Nel 2013 il fatturato dell'azienda è stato di circa 40 milioni di euro. Il fatturato estero rappresenta l'8% del totale, conseguito con i marchi Proraso e Marvis, ed è in forte crescita con una presenza in 38 paesi esteri. Gli Stati Uniti sono il paese più importante per esportazione, con un incremento di quasi il 100% nell'ultimo anno. Proraso è appunto un marchio di prodotti dedicati alla rasatura e creati nei laboratori fiorentini della più antica e longeva impresa italiana. Gesto quotidiano e naturale ogni mattina, in ogni famiglia. Un padre che si fa la barba, questo c'è in tutte le famiglie. Io ricordo la mattina, prima di andare a scuola, nelle varie chiacchiere, il mio babbo con la radio in bagno che si faceva la barba, e io un po' che l'aspettavo magari perché mi portasse a scuola, un po' che era un momento così di intimità e di chiacchiera, però lo guardavo che faceva tutti questi gesti per radersi, oppure in casa ho sempre avuto in campagna i rasoi del nonno, gli oggetti sparsi in casa con anche ricordi. Ma anche gesto rituale, con regole che possono arrivare alla perfezione grazie a un decalogo della rasatura perfetta che la stessa Stefania Martelli riporta con precisione. La premessa è che la barba migliore la si fa o da barbiere oppure la si fa prendendosi il proprio tempo. È chiaro che tutti devono andare a lavoro, hanno degli orari, hanno fretta, e va benissimo che in questi giorni la barba venga fatta rapidamente. Quando però si vuole una coccola per se stessi, un momento, una cosa fatta a regola d'arte, il tempo è una cosa fondamentale. Quindi non cerchiamo di fare le robe rapidissime perché ne va proprio del piacere di un gesto del genere. Allora si parte da inumidire il viso con dell'acqua calda, perché l'acqua calda aiuta a preparare la pelle moltissimo alla rasatura, che comunque è un gesto traumatico perché c'è una lama che passa sul proprio viso. Il secondo passo è quello di applicare sul viso inumidito la crema pre-barba Proraso, che è proprio il capostipite con cui Proraso è nato. Aiuta tantissimo a far scorrere il rasoio, a preparare la pelle, a preparare appunto il pelo alla rasatura, senza sciacquare la crema, perché come tutte le creme vanno tenute sul viso. Poi si può procedere, se uno ha molto tempo o se da barbiere, con il panno caldo, perché il calore del panno aiuta la pelle ad assorbire ancora di più la crema e prepara appunto il pelo alla rasatura, quindi rimane più docile. Un altro elemento fondamentale per una rasatura a regola d'arte è utilizzare il metodo classico, cioè cosa significa? Significa con il pennello. Si può usare il sapone in tubo, il sapone in ciotola, quindi più o meno un sapone duro, però il pennello è fondamentale. Il pennello bagnato, inumidito anch'esso nell'acqua calda e poi usato per montare il sapone e poi per applicare il sapone sul viso, innanzitutto pettina la barba e quindi fa sì che quando il rasoio passa non trovi tutti i peli ingarbugliati, ma li trovi già preparati. Poi ovviamente prepara la pelle, quindi sono tutte azioni volte sostanzialmente a ammorbidire il pelo, fargli inglobare dell'umidità e quindi farlo diventare più grosso e quindi più facile da rasare, o l'altra azione di tutti questi gesti gesti è quella appunto di preparare la pelle, di proteggerla poi al momento in cui verrà rasa. E poi arriva il rasoio, lì tutte queste invenzioni di lame più lame sono fatte per minimizzare i problemi di eventuali tagli, perché adesso è veramente difficile tagliarsi con un rasoio da tre lame in su. Il barbiere rade con il rasoio a mano libera, il coltellaccio, insomma, chiamiamolo così, e lì ovviamente ci vuole una grande manualità, bisogna sapere orientarlo bene sul viso, seguire tutti i lineamenti, bisogna cambiare tipologia di rasoi, ci sono i rasoi per le zone grandi del viso, tipo le guance, i rasoi invece a lama fine per la parte, per esempio, più dei baffi. La rasatura si deve chiudere sempre con un dopobarba, che può essere alcolico o non alcolico, a seconda del gradimento personale, del tipo di pelle. Sconsiglierei a una persona con la pelle infinitamente sensibile di usare un dopobarba alcolico, però il dopobarba serve, ancora una volta, come i prodotti prima, per proteggere, serve per ridare alla pelle quello che ha perso durante la rasatura, che appunto è un gesto traumatico. Poi ci si può specchiare e guardarsi nello specchio e dire: ho fatto un bel risultato, un bel lavoro. Oltre a innate capacità di immedesimazione, c'è una lunga esperienza alle spalle di Stefania Martelli, oltre 100 anni di storia di azienda e di famiglia. Durante i primi decenni del Novecento, l'azienda si occupa principalmente di distribuire in Italia i più importanti prodotti di cosmetica in commercio in Europa, come la Colonia 4711. Durante gli anni 40, grazie alla spinta imprenditoriale di Piero Martelli, il figlio del fondatore Ludovico, l'azienda inizia la produzione propria. Vengono attivati i primi laboratori di ricerca e lo stabilimento di produzione di creme e prodotti di bellezza. E con l'inizio degli anni 30 vengono lanciati sul mercato i primi marchi. E dalle profumerie alle barberie il passo è breve. Piero inventa una crema per preparare la pelle alla rasatura, che nelle pubblicità aveva qualcosa di miracoloso. Proraso è nata negli anni 40 da mio nonno Piero Martelli, che nell'immediato dopoguerra aveva già dei rapporti con i barbieri a cui vendeva altri prodotti, che erano tutte le acque di colonie, e si rese conto, con questo boom e crescita appunto dell'Italia nell'immediato dopoguerra e poi gli anni 50 e 60, che c'era bisogno di un prodotto che potesse aiutare il barbiere, e quindi l'uomo che veniva raso, a avere più piacere in questa rasatura, togliere, diciamo, i problemi della rasatura. E creò questa crema pre e dopo barba che chiamò Proraso. Inizialmente il prodotto è pensato per le esigenze professionali dei barbieri, ma una volta in commercio riesce a conquistarsi il posto d'onore sulla mensola da bagno degli uomini italiani. Proraso conviveva con un altro prodotto innovativo per la rasatura, chiamato Raso San. Era un panetto solido a base di latte fresco. Volendo offrire anche un sapone per la rasatura in tubo, il nonno Piero fu molto incerto se utilizzare il marchio Raso San o Proraso. Chiese quindi consiglio a un suo giovane venditore, Andrea Solferino, che stava facendo un ottimo lavoro con i barbieri della Campania, e a Roma, nell'albergo Massimo D'Azeglio, prese una decisione. Nacque così il secondo prodotto Proraso e si creò il concetto di una linea completa per la rasatura umida, su cui il marchio ancora oggi si fonda. Andrea Solferino, che era un venditore di mio nonno e che io ho conosciuto benissimo, purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, ma lui proprio era presente fino all'ultimo, a 90 anni, alle nostre riunioni vendita. Nel Medioevo, tra le attività del barbiere, oltre alla cura della barba e dei capelli, c'era la pratica di numerose operazioni chirurgiche anche molto complesse. È dalla più frequente pratica del salasso che prende origine il barber pole. Stefania Martelli conosce a fondo non solo il presente e il futuro, ma anche il passato della barberia. Una volta, inteso come nel Medioevo, quindi molti, molti, molti anni fa, il barbiere era una sorta di chirurgo. E quindi era anche luogo dove, per esempio, si praticavano i salassi. E l'immagine che poi ormai è mondiale, simbolo mondiale dei barbieri, del barber pole, cioè di questo palo bianco e rosso, talvolta anche blu, che gira, ricorda esattamente questo. Cioè, nella parte superiore c'è una palla del barber pole e così anche nella parte inferiore. Questo rappresenta la parte sopra dove venivano tenute le sanguisughe e la parte sotto dove veniva raccolto il sangue. È una cosa un po' cruenta, mi rendo conto. E queste bende che venivano usate per fasciare il braccio e che quindi poi erano sporche di sangue, venivano appese fuori per asciugare, ecco, banalmente per come panni stesi fuori, e volteggiavano e avevano il colore rosso del sangue o bianche se erano pulite. Poi, e quindi questo è, diciamo, sintetizzato che cosa significa il barber pole, come dire qui si fanno i salassi. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.